ad alta voce. Corrado Guzzanti legge Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov. Tredicesima puntata. Dottor Bormental si alzò in piedi, pallido, con gli occhi risoluti, sollevò il bicchierino dalla vita di Vespa. «Filip Filipovic», esclamò commosso, «non dimenticherò mai quando, studente mezzo morto di fame, mi presentai a lei e lei mi offrì un riparo all'ombra della sua cattedra. Mi creda, Filip Filipovic, lei per me è molto più di un professore insegnante. Il mio eterno rispetto nei suoi confronti mi consenta di darle un bacio, caro Filip Filipovic». «Sì, mio caro», mugolò confuso Filip Filipovic e sollevandosi dalla poltrona gli andò incontro. Bormental lo abbracciò e baciò sui baffi pelosi che sapevano di fumo. «Mi ha commosso davvero, mi ha commosso. La ringrazio», disse Filip Filipovic. «Mio caro, alle volte durante le operazioni le grido addosso. Deve scusare la mia irascibilità senile. In effetti, sono così solo. Da Siviglia fino a Granada!» «Filip Filipovic, come fa a non vergognarsi a dire certe cose?» esclamò sinceramente l'infiammato Bormental. «Se non mi vuole offendere, non mi parli mai più in questa maniera». «Beh, la ringrazio. Del Nilo sacro lido». «Grazie. E io le voglio bene, perché lei è un bravo medico». «Filip Filipovic, voglio dirle una cosa», esclamò con passione Bormental. Scattò su dal suo posto, chiuse per bene la porta che dava sul corridoio e, tornato indietro, continuò in un sussurro. «D'altronde è l'unica via d'uscita. Naturalmente non mi permetto di darle dei consigli, ma Filip Filipovic, si guardi un attimo. Lei è stremato. Così non è possibile lavorare». «Assolutamente impossibile», confermò Filip Filipovic con un sospiro. «Ecco, dunque, è impensabile», sussurrava Bormental. «La volta scorsa lei ha detto che teme per me. E se sapesse, caro professore, come mi ha commosso con quelle parole. Ma d'altronde io non sono un ragazzino e mi rendo conto da solo che potrebbero esserci delle conseguenze terribili. Sono però profondamente convinto che non ci sia altro da fare». Filip Filipovic si alzò, agitò le braccia ed esclamò: «Non mi tenti e non ne parli nemmeno». Il professore prese a camminare per la stanza, sommuovendo ondate di fumo. «E io nemmeno l'ascolterò. Capisce bene quel che capiterebbe se ci dovessero scoprire noi due. Prendendo in considerazione l'origine sociale, non la scamperemmo, nonostante si tratti della prima condanna. Perché anche lei, mio caro, non ha certo l'origine sociale che ci sarebbe necessaria». «Ma che diavolo, mio padre era giudice istruttore a Vilna», rispose amaramente Bormental, finendo di bere il cognac. «Ecco, vede, una gran brutta eredità. Difficile immaginarsene una più schifosa. D'altronde, scusi tanto, ma la mia è ancora peggio. Mio padre era arciprete di una cattedrale». «Da Siviglia fino a Granada, nella silente oscurità notturna». «Che se la pigli il diavolo!» «Filip Filipovic, lei è un luminare di portata mondiale e per colpa, mi scusi l'espressione, di un qualsiasi figlio di cagna. Ma vedrà che non oseranno toccarla». «A maggior ragione non lo farò», obiettò pensoso Filip Filipovic, fermandosi e voltandosi a guardare l'armadio a vetri. «E perché?» «Perché invece lei non è un luminare di portata mondiale. E quando mai, appunto, e abbandonare un collega in caso di catastrofe, scamparla in virtù della propria portata mondiale. Scusi tanto, io sono stato uno studente moscovita, non uno Sharikov qualsiasi». Filip Filipovic sollevò orgoglioso le spalle e divenne simile a un antico re di Francia. «Filip Filipovic, ah!» esclamò amaramente Bormental. «Dunque, che si fa? Resterai in attesa che questo teppista diventi un uomo?» Filip Filipovic lo fermò con un movimento delle mani. Si versò del cognac. Lo inghiottì, succhiò il limone e disse: «Ivan Arnoldovic, secondo lei, diciamo, quanto ne capisco di anatomia e fisiologia dell'apparato cerebrale umano?» «Filip Filipovic, perché me lo domanda?» rispose con grande enfasi Bormental e allargò le braccia. «Va bene, senza falsa modestia, anch'io ritengo di non essere l'ultimo venuto in questo campo qui a Mosca. E io ritengo che lei sia il primo, non solo a Mosca, ma anche a Londra e a Oxford», lo interruppe con furia Bormental. «D'accordo, mettiamo pure che sia così. Ecco dunque, futuro professor Bormental, una cosa del genere non riuscirà mai a nessuno, è certo. Può anche fare a meno di chiedere in giro. Citi pure il mio nome. Dica pure che Probaczynski ha detto: è finita la commedia. Klim!» esclamò all'improvviso Filip Filipovic solennemente e l'armadio gli fece eco. «Klim!» ripeté. «Vede, Bormental, lei è il primo allievo della mia scuola e oltre a ciò è un amico, cosa di cui oggi mi sono convinto. Ecco, dunque, a lei, in quanto amico, voglio comunicare in segreto, naturalmente so bene che non andrei in giro a svergognarmi, che quel vecchio asino di Probaczynski ha preso un granchio con questa operazione, come uno studentello del terzo corso. È vero, c'è stata una scoperta e lei sa bene quale». E a quel punto Filip Filipovic indicò con entrambe le mani la tendina della finestra, alludendo evidentemente a tutta Mosca. «Solo che deve tenere presente, Ivan Arnoldovic, che l'unico risultato di questa scoperta sarà che adesso noi tutti questo Sharikov ce lo dobbiamo tenere proprio qui». E Probaczynski si assestò un colpo sul collo irrigidito e predisposto alla paralisi. «Ne può star certo. Se qualcuno», continuò Filip Filipovic voluttuosamente, «mi stendesse qui per terra e mi frustasse, io lo giuro, pagherei». «Da Siviglia fino a Granada?» «Che mi porti il diavolo! Sono stato lì per 5 anni a rovistare nei cervelli per cavar fuori l'ipofisi. Lei sa bene che lavoro abbia fatto, roba da non crederci. E adesso viene da chiedersi perché. Perché in una bellissima giornata il più tenero dei cani si trasformasse in una canaglia tale da far rizzare i capelli». «È qualcosa di eccezionale». «Sono assolutamente d'accordo con lei. Vede, dottore, cosa capita quando il ricercatore, invece di andare a tentoni e seguendo il corso della natura, forza la questione e solleva il velo. Ecco, ti becchi Sharikov e te lo devi sorbire fino in fondo». «Filip Filipovic, ma se fosse il cervello di uno Spinoza?» «Già», rugliò Filip Filipovic, «già, sempre che quel disgraziato di un cane non mi muoia sotto il bisturi e lei ha visto di che razza di operazione si tratta. In una parola, io, Filip Probaczynski, non ho mai fatto nulla di più difficile in vita mia. Si può innestare l'ipofisi di Spinoza o di un qualsivoglia demonio e tirar fuori da un cane qualcosa che ne vale infinitamente di più. Ma perché diavolo, mi domando, mi spieghi, la prego, perché è necessario fabbricare artificialmente uno Spinoza quando una qualsiasi baba ne può mettere al mondo uno quando lo si vuole?» «Dottore, l'umanità si preoccupa di queste cose da sola e nell'ordine evolutivo ogni anno, separando accuratamente da una massa di ogni possibile sozzura, crea decine di insigni geni che vanno ad adornare il globo terrestre. Adesso capisce, dottore, perché io abbia respinto la conclusione a cui lei è pervenuto nella cartella clinica di Sharikov. La mia scoperta, che i diavoli se la piglino, che lei porta alle stelle, non vale un soldo bucato. E non voglio discussioni, Ivan Arnoldovich, tanto ho già capito tutto. Non parlo mai al vento, questo lei lo sa perfettamente. Da un punto di vista teorico è interessante, posso anche essere d'accordo. I fisiologi ne saranno entusiasti. Mosca uscirà di testa dalla gioia, bene, ma praticamente chi ha davanti in questo momento? Probaczynski col dito indicò la stanza al lato dell'ambulatorio dove se la dormiva Sharikov. Un furfante eccezionale. «Ma chi è? Klim, Klim!» gridò il professore. «Klim Chugukin!» Bormental spalancò la bocca. «Ecco cos'è! Due condanne! L'alcolismo! Dividere ogni cosa! Il berretto e le due banconote scomparse!» A quel punto Filip Filipovic rammentò il bastone del giubileo e divenne paonazzo. «Beh, c'ero il maiale! Beh, quel bastone lo troverò! In una parola... L'ipofisi è una camera chiusa che determina un dato tipo di individuo. Un dato tipo. Da Siviglia fino a Granada, gridava Filip Filipovic stravolgendo gli occhi inferocito. E non un tipo in generale. È una miniatura del cervello stesso. E a me non serve assolutamente. La si può buttare ai porci. Io mi occupavo di tutt'altro, di eugenetica, del miglioramento della razza umana. Ed ecco che mi sono andato a imbattere nel ringiovanimento. Possibile che lei pensi che lo faccia per soldi? Sono pur sempre uno scienziato. Lei è un grande scienziato. Ecco come stanno le cose, proferì Bormental inghiottendo il cognac. I suoi occhi erano iniettati di sangue. Volevo fare una piccola esperienza. Dopo che 2 anni fa per la prima volta avevo ottenuto dall'ipofisi un estratto di ormone sessuale. E invece che cosa ne è venuto fuori? Dio mio, di questi ormoni nell'ipofisi, oh signore, dottore, dinanzi a me c'è solo cupa disperazione. Io lo giuro, sono completamente smarrito. Bormental all'improvviso si rimboccò le maniche e disse, storcendo gli occhi verso il naso: «Allora, caro maestro, ecco cosa faremo. Se lei non vuole, sarò io, a mio rischio e pericolo, a dargli l'arsenico. Al diavolo se il mio papà era un giudice istruttore. In fin dei conti si tratta di un essere sperimentale di sua proprietà». Filip Filipovic si spense, si afflosciò, si lasciò cadere in poltrona e disse: «No! Non glielo permetto, caro ragazzo. Ho 60 anni. Posso darle dei consigli. Non commetta mai un crimine nei confronti di chiunque, non importa chi. Viva fino a tarda età senza sporcarsi le mani. Ma andiamo, Filip Filipovic. Se quello Schwonders lo lavora ancora un po', dove si andrà a finire? Dio mio, solo adesso comincio a capire cosa può venir fuori da questo Sharikov. E dunque... Adesso ha capito. Io avevo capito 10 giorni dopo l'operazione. Allora Schwonder è davvero un perfetto idiota. Non si rende conto che Sharikov è molto più pericoloso per lui che per me. Adesso cerca in ogni modo di aizzarlo contro di me, senza immaginare che se chiunque a sua volta aizzerà Sharikov contro lo stesso Schwonder, di lui non rimarranno che le corna. E come? Basti pensare ai gatti. Un uomo con un cuore di cane. Oh, no, no, cantilenò Filip Filipovic in risposta. Lei, dottore, sta facendo un grossissimo errore. In nome di Dio non calunni i cani. I gatti sono qualcosa di temporaneo. È una questione di disciplina. e della durata di 2 o 3 settimane, glielo assicuro. Ancora qualche mese smetterà di inseguirli. E perché allora adesso lo fa? Ivan Arnoldovich, è una cosa elementare. Cosa si mette a chiedermelo? L'ipofisi non se ne sta mica a penzolare nell'aria. Comunque è innestata in un cervello di cane. Le dia il tempo di abituarsi. Adesso Sharikov manifesta solo residui della sua personalità canina e cerchi di capire. Inseguire i gatti è ancora il minimo che possa fare. Si immagini che il vero orrore sta nel fatto che non ha più un cuore di cane, ma precisamente un cuore umano, e il più lurido di quanti ne esistano in natura. Bormental, al massimo grado d'eccitazione, strinse a pugno le mani forti e magre, alzò le spalle e disse con fermezza: «È deciso. Lo ucciderò. Lo proibisco», rispose categoricamente Filip Filippovich. «Ma mi ascolti». Filip Filippovich all'improvviso si allertò. Sollevò un dito. «Aspetti un momento. Ho sentito dei passi». Entrambi si misero in ascolto, ma nell'appartamento c'era silenzio. «Mi era sembrato», disse Filip Filippovich, e con ardore si mise a parlare in tedesco. Tra le sue parole diverse volte risuonò la parola russa «reato». «Un attimo!» All'improvviso fu Bormental ad allertarsi e s'accostò alla porta. I passi si udirono chiaramente e si stavano avvicinando allo studio. Oltre a ciò, una voce borbottava. Bormental spalancò la porta e indietreggiò dallo stupore. Filip Filippovich, completamente trasecolato, si immobilizzò sulla poltrona. Nel quadrangolo illuminato del corridoio apparve Daria Petrovna, con la sola camicia da notte addosso e il volto combattivo e in fiamme. Tanto il medico che il professore furono accecati dall'abbondanza di quel corpo possente, e come entrambi parve per il terrore completamente nudo. Tra le braccia possenti Daria Petrovna trascinava qualcosa, e questo qualcosa, puntellandosi, era accucciato sul sedere, e le sue gambe corte, coperte di una peluria nera, si agitavano sul parquet. Quel qualcosa, naturalmente, si rivelò essere Sharikov, completamente smarrito, ancora del tutto ubriaco, arruffato e con solo la camicia addosso. Daria Petrovna, grandiosa e nuda, scrollò Sharikov come se fosse un sacco di patate e proferì tali parole: «Guardi un po', signor professore, il suo visitatore Telegraf Telegrafovich. Io sono stata sposata, ma Zina è una fanciulla innocente. Meno male che mi sono svegliata». Portato a termine questo discorso, Daria Petrovna cadde in preda alla vergogna, lanciò un gridolino e si coprì il petto con le mani per poi scappare via. «Daria Petrovna, scusi tanto, per l'amor di Dio!» le gridò dietro, riprendendosi Filip Filippovich rosso in faccia. Bormental si arrotolò ancora di più le maniche della camicia e si mosse verso Sharikov. Filip Filippovich, dopo averlo guardato negli occhi, inorridì. «Che fa, dottore? Le proibisco!» Bormental prese Sharikov per la collottola con la mano destra e lo scrollò al punto che il tessuto della camicia si strappò sulla schiena e davanti saltò via il bottone che la chiudeva sulla gola. Filip Filippovich si precipitò in mezzo a loro e si diede a strappar via dalle tenaci mani del chirurgo il gracile Sharikov. «Non ha diritto di picchiarmi!» gridava Sharikov mezzo strozzato, sedendo a terra e smaltendo la sbornia. «Dottore!» urlò Filip Filippovich. Bormental rientrò parzialmente in sé e lasciò andare Sharikov. Dopodiché questi subito si mise a piagnucolare. «Va bene, d'accordo!» sibilò Bormental. «Aspetteremo fino al mattino. Gli organizzerò io una bella festa quando avrà smaltito la sbornia». A quel punto afferrò Sharikov sotto le ascelle e lo trascinò a dormire in sala d'aspetto. Sharikov fece il tentativo di scalciare, ma le gambe si rifiutarono di ubbidirgli. Filip Filippovich allargò le gambe, colché i lembi celesti si scostarono, sollevò le mani e gli occhi verso la lampada appesa al soffitto del corridoio e proferì: «Oh, che roba!» Thank you.